Before we return to Sarah and Lorenzo in the shop, here are some new words and phrases. The first is... Pronto? Hello. Literally, it means ready. Listen to the questioning intonation of the Italian and copy it. Pronto? Then we have two verbs. Arriviamo. We arrive from... Arrivare. And... Torniamo. We return or go back from... Tornare. Listen and repeat. Arriviamo. Torniamo. Now the phrase used after you thank someone. Non c'è di che. Which means roughly, don't mention it. Listen and repeat. Non c'è di che. Now another expression used when parting. A presto. See you soon. Listen and repeat. A presto. And finally the word appunto, which means exactly. You use this when you want to express agreement. Listen and repeat. Appunto. And now some questions. Ed ora alcune domande. Listen to the example. Ascolti l'esempio. Come si dice hello in italiano? Si dice pronto? Answer the questions. Risponda alle domande. And then repeat the correct answer. E poi ripeta la risposta esatta. Come si dice hello in italiano? Si dice pronto. Come si dice we arrive in italiano? Si dice arriviamo. Come si dice we go back in italiano? Si dice torniamo. Come si dice don't mention it in italiano? Si dice non c'è di che. Come si dice see you soon in italiano? Si dice a presto. Come si dice exactly in italiano? Si dice appunto.